Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qua allora alle 7:22 minuti, cari ascoltatori, pronti a leggere i giornali. E vi ricordo che oggi avremo ospite Nicola Zingaretti, che è presidente della provincia di Roma, nonché il candidato per il Partito Democratico alla regione Lazio. E poi parleremo di quello che sta succedendo in Africa tra Mali e Algeria. Questo alle 8:30. I giornali allora li trovate in edicola, ovviamente, andiamo a sfogliarli. Venerdì 18 gennaio, i titoli, il Sole 24 Ore apre sulla BCE, allarme investitori, ma lo spread scende a 264. Poi la situazione in Africa, Corriere della Sera, in Algeria la strage degli ostaggi, per Repubblica Algeria massacro di ostaggi, Avvenire fuoco sugli ostaggi e il Secolo XIX la strage degli ostaggi. Escalation invece è il titolo sempre legato a questo tema sul Manifesto. Per la politica italiana, la stampa, voto in TV, Berlusconi da record, mentre il Messaggero, crescita lenta, manovra in arrivo, così titola il Messaggero. Libero, redditometro, bonifici anche per la paghetta. Per l'Unità, Bersani, non li faremo tornare. Il Fatto Quotidiano, la cricca sinistra-destra viaggia sull'alta velocità, mentre il giornale dipinge il centro-sinistra così il mucchio selvaggio. In realtà mette insieme Monti, Bersani, Fini, Casini e tutti in quello che è l'ipotesi di accordo, che è un po' il tema politico che c'è su tutti i giornali in questi giorni. Prima però, se avete ben le mani sul volante, ben salde, attaccate, incollate in caso di sbandate, per la notizia che vi sto per leggere, ce le avete? Sì. Siete nel traffico? Sì. Anche sempre mani sulla tazzina, ovviamente che c'è il rischio con il caffè bollente di scottarsi. Repubblica, pagina 12, Roma, l'esercito dei 1000 consulenti, Alemanno spende oltre 20 milioni. Questo è il titolo dell'articolo che trovate, riguarda il sindaco di Roma, ma per verificarne l'operato il sindaco nomina altri due esterni. Daniela Autieri racconta su Repubblica: non bastavano 19.000 dipendenti, 6.000 funzionari, 280 dirigenti superpagati per mandare avanti il pachiderma amministrativo del Comune di Roma. Nonostante questo esercito, negli ultimi 2 anni Gianni Alemanno ha spalancato le porte alla carica dei consulenti. Sono 1.020 negli ultimi 2 anni, costati alle tasche dei contribuenti 20,7 milioni di euro. Questo, ripeto, dice Repubblica, nonostante il Comune di Roma possa già contare su 19.000 dipendenti e 6.280 dirigenti. È una prassi tanto diffusa in Campidoglio da coinvolgere perfino l'ufficio incaricato di verificare la congruità dei compensi assegnati agli esterni. Cioè, non so se avete capito, l'organismo che deve valutare la congruità dei compensi per i consulenti è assegnato a due consulenti. E beh, questo almeno stando a quanto scrive il quotidiano Repubblica. Ci sono alcune consulenze che vengono spulciate, un po' come quella di Alexander Marco Andrew Sharra, nato a Londra nel 73. Ha ottenuto il primo incarico dall'aprile al dicembre 2010, un compenso di quasi 50.000 euro. Il suo compito: lo studio delle nuove attività istituzionali di cui sarà investita l'Assemblea Capitolina. E la Giunta ha giustificato l'assegnazione diretta adducendo la complessità dell'incarico e le non comuni competenze di Sharra nel settore oggetto della consulenza. In realtà, per Repubblica, ha conseguito una laurea in scienze della comunicazione alla LUMSA, un master in geopolitica e sicurezza globale all'Università La Sapienza, un diploma di liceo linguistico con buona conoscenza di lingua inglese e spagnola. Insomma, almeno da questo curriculum non si evince questa competenza, clamorosa. Poi, c'è un'altra consulenza che viene annotata nell'articolo: Giancarlo Del Sole, che dopo un incarico da 20.000 euro del 2010 ne ha firmato un altro da 40.000, è stato inserito nel comitato tecnico del piano strategico per la mobilità sostenibile. Ma poi, insomma, c'è un elenco lungo, ma al di là dei nomi è il concetto sul quale Repubblica punta l'accento e anche l'imbalzo utilizzo delle consulenze, per la verità non solo nel comune di Roma, in tutta Italia. In questo caso, ripeto, negli ultimi due anni 1020 consulenti, costo di 20,7 milioni di euro per il comune di Roma. Ora potete appoggiare il caffè, no, spero l'abbiate già fatto, e potete rilassare le mani sul volante. Vi voglio leggere, prima della pubblicità, una storia. Si fa fatica a dire una bella storia perché riguarda una persona che non c'è più, che è morta all'inizio di gennaio, ma che per la prima volta è stata raccontata sulla stampa. Ieri a me è sfuggita e me ne dispiaccio, ma oggi Il Secolo XIX e Il Fatto Quotidiano riraccontano nella maniera più dettagliata la storia di un signore, si chiama Walter Bevilacqua, e voi direte, e chi è? Era un pastore di 68 anni, un pastore piemontese, che attendeva un trapianto di rene. Attendeva un trapianto di rene, ma quando era il suo turno, quando era stato trovato il rene per lui, ha detto: io non ho nulla, non ho una famiglia, non ho figli, e quindi io rinuncio, date il rene a chi ha figli. Questa storia oggi viene raccontata, ripeto, anche dal Fatto Quotidiano, viene ripresa e dal Secolo XIX, qui dal Secolo voglio leggere la pagina 8, il commuove il gesto d'altruismo di Walter Bevilacqua, un pastore piemontese, il rene per me, datelo a chi ha figli. Scrive Mauro Ravarino, difficile capire la vita di montagna se non la si è provata, in salita tra le nuvole, la montagna tempra il carattere, ispido come i sentieri, generoso come lo sguardo in cima ai colli. E certe scelte, tanto radicali quanto altruiste, si comprendono solo da qui, dall'alto, soprattutto se si è vissuto una vita intera tra i pascoli a fare il pastore, una vita piena di sacrifici, a stretto contatto con la natura, tra i monti dell'Ossola, nel nord del Piemonte, in provincia di Verbania, ai confini con la Svizzera. Qui viveva Walter Bevilacqua, 68 anni, che ha rinunciato al trapianto di rene. Con questa spiegazione proprio, solo, non ho famiglia, lascio il mio posto a chi ha più bisogno di me, a chi ha figli e per questo ha più diritto di vivere. Tra l'altro questo non l'aveva detto lui stesso, l'ha confessato il parroco nel giorno del funerale, cioè lui non aveva reso pubblica questa decisione, mentre il parroco nel giorno del funerale ha raccontato durante l'omelia questa decisione che Walter Bevilacqua non aveva neanche voluto rendere pubblica, non aveva mai voluto rivelare il suo sacrificio. La sua storia, ripeto, la trovate oggi sul Fatto Quotidiano, firma Gianni Barbacetto, ma anche sul Secolo XIX, il pezzo dell'articolo che ho letto a pagina 8. Ve la segnalo perché secondo me è una storia interessante, bella anche se, ripeto, purtroppo Bevilacqua non c'è più, ma bella da leggere. Ci fermiamo 5 minuti, poi rientriamo con la politica italiana. 24 mattino. Siamo qua allora a leggere e a continuare a leggere il giornale alle 7.35. Allora, oggi alle 8.30 ci concentreremo, cercheremo di capire cosa sta succedendo in Africa, in due paesi per la precisione, in Mali e in Algeria. Le cose sono collegate perché in Algeria c'è stata una strage di ostaggi. In Algeria due giorni fa un gruppo di estremisti nel sito di In Amenas, dove lavorano, un sito petrolifero dove lavorano molti stranieri, ha sequestrato una serie di ostaggi, rivendicando anche in qualche modo le battaglie che stanno facendo in Mali, dove ci sono i raid aerei francesi, dicendo l'Occidente lasci il Mali, eccetera. Risultato: l'esercito algerino ha fatto un blitz. È stata una tragedia. Ci sono ancora informazioni confuse, ma insomma i giornali parlano di strage, di 35 morti, ovviamente mettendo insieme sia gli occidentali che erano stati sequestrati, sia i terroristi che hanno fatto questa azione. L'operazione delle forze speciali algerine, scrive Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera pagina 2, è dalle prime luci dell'alba di ieri. L'obiettivo è proprio porre fine all'incubo per i 41 tecnici stranieri, per lo più norvegesi, inglesi, americani, francesi, giapponesi, catturati 24 ore prima assieme a centinaia di lavoratori locali dai militanti islamici del gruppo Mulatamins, i segnati col sangue. E appunto ci sono informazioni ancora poco dettagliate, ma si parla di tragedie. Ci sono anche delle testimonianze, come su Repubblica La testimonianza è di Melanie Matarese da Algeri. Costretti a mettere cinture esplosive, siamo diventati degli scudi umani. Parla una delle persone, gli ostaggi, che sarebbe riuscito a salvarsi. Un ingegnere della divisione tecnica dello stabilimento per l'estrazione del gas a In Amenas, alla frontiera con la Libia, ha detto: sono arrivati i terroristi, li ho visti uccidere un uomo, mio amico occidentale, a sangue freddo. Alcuni di noi sono stati costretti a infilare cinture esplosive, sono stati trasformati in scudi umani per frenare l'intervento delle forze dell'esercito algerino. Non riesco a capire come i terroristi siano riusciti a entrare con tanta facilità nella base, nonostante la presenza della sicurezza. Devono avere avuto dei complici all'interno. Beh, certamente questo è legato a quello che sta succedendo in Mali, dove continua l'interventismo della Francia, di Hollande. Tra l'altro Hollande ha detto, e scrive oggi bene il Corriere a pagina 5, è possibile l'intervento di truppe di paesi europei in Mali. Per la verità l'Italia ha già deciso che cosa? L'invio di una missione di istruttori. Qui ci sarà la questione solita di lana caprina, che cercheremo di affrontare anche alle 8:30. Allora, se mandiamo degli istruttori o del materiale di supporto logistico per aiutare questo intervento militare della Francia, che ricordiamo sta intervenendo perché nel nord del Mali si sono insediate alcune forze che sono considerate di estremismo islamico, vicino anche ad Al-Qaeda, e quindi si vuole impedire che prendano, che possano prendere tutto il Mali, il potere in Mali. Se facciamo questo tipo di intervento, vuol dire che siamo in guerra? Al di là dei tecnicismi e delle tecnicalità, di quelle che sono le posizioni ufficiali, voi che ne pensate, cari ascoltatori? Ecco, questa è la domanda che ci vorremmo porre alle 8:30. E capite, avete capito la ratio di questo intervento di supporto logistico o di prendere parte a questo intervento militare? Ne parleremo alle 8:30. È chiaro che è un qualcosa che rischia purtroppo di finire in escalation. Cito questa parola perché è il titolo di apertura del manifesto, che mette proprio sullo sfondo alcuni militari francesi che fanno il saluto. Si intuisce che siano nel deserto, e proprio di questo si parla: il rischio che quest'area dell'Africa, ai più sconosciuta, magari anche colpevolmente da noi italiani, rischi di trasformarsi in una zona davvero di guerra intensa, che può anche avere delle ripercussioni per noi in Italia. Ricordiamo, come racconta oggi bene Alberto Negri sul Sole 24 Ore, che l'Algeria, dove sono stati fatti questi sequestri di ostaggi, e che è al confine con il Mali e dove c'è stato il blitz dell'esercito algerino, l'Algeria è la cassaforte del gas e quindi delle forniture energetiche anche per noi italiani. Veniamo invece alla politica. La politica, io devo correggere un ascoltatore che dice: non dica che i partiti non hanno i programmi ci sono. No, infatti io non è che non dico che non ci siano i programmi, è ovvio che ci sono i programmi elettorali. Dei programmi elettorali però sui giornali, almeno io quando faccio la rassegna stampa, non si vede quasi nulla. Ancora oggi c'è da dire, il Sole 24 Ore fa una meritoria pagina sulla spending review, ma per il resto a che cosa assistiamo? Assistiamo per il momento al balletto di dichiarazioni, polemiche, contropolemiche. Bersani ieri ha tuonato contro i partiti personali. Bersani sarà ospite alle 9 di Simone Spezia, 9 in punto oggi. E no ai partiti personali, sono il cancro. Dall'altra parte Berlusconi ha detto: è come al mercato, paghi uno e compri due, cioè paghi Bersani e voti Monti. O meglio, prendi Monti e prendi anche Bersani. Insomma, ha parlato dell'accordo, che è il tema politico più sviluppato dai giornali. L'accordo, il tentativo di accordo che ci sarebbe o nei tentativi di avvicinamento tra Monti e Bersani. Ieri abbiamo parlato di questo incontro che c'è stato ieri mattina doveva essere un incontro abbastanza segreto. In realtà oggi il Foglio scrive che non c'è stato alcun incontro, ma semplicemente una serie di chiamate che Monti ha fatto a tutti i leader di partito per relazionarli sulla situazione in Mali e sull'impegno del governo italiano. E quindi quello che è stata una telefonata di Monti a Bersani, ma anche a Casini, anche ad Alfano, ad altri, è stata interpretata come, da alcuni giornali, come un vero e proprio incontro. Allora, sarà stato un incontro, sarà stata una telefonata? A che punto è il grado di riavvicinamento, di avvicinamento per una possibile intesa post-elettorale tra Monti e Bersani? Ebbene, i giornali si interrogano su questo. Marco Galluzzo, a pagina 11 del Corriere della Sera, racconta: alleanza PD centristi dopo il voto, il giallo del colloquio segreto. Ecco, adesso è diventato addirittura un giallo. C'è stato questo colloquio segreto, è stato un giallo, chi lo sa. Sta di fatto che tutto questo ha allarmato molto Casini. E infatti Francesco Bei, nel suo retroscena su Repubblica, incontro segreto, l'allarme di Casini. Attenti a non fare regali a Berlusconi. Scrive Francesco Bei: nessun patto di non belligeranza siglato tra il centro e il PD non esiste, dice Casini. Se c'è una cosa che lo manda in bestia è la raffigurazione di un centro subalterno alla sinistra. E allora, quando ha letto di questo incontro che si sarebbe svolto tra Monti e Bersani, ha parlato di un film di fantascienza, un'alleanza post-elettorale col centro-sinistra, perché il nostro programma non potrà mai convivere con quello di Sel. Anche oggi, come del resto faccio tutti i giorni, dice Casini, ho parlato con Monti, ma di questo patto con Bersani il Premier non mi ha assolutamente parlato. Non esiste, non c'è stato nemmeno un incontro, Monti ha smentito. Insomma, i giornali da due giorni si interrogano sulle possibili alleanze e sul possibile incontro. C'è stato o no questo incontro tra Monti e Bersani? Una telefonata, un incontro, come due amanti un po' sotterranei? Chi lo sa? Torna in qualche modo a parlare, non è proprio un'intervista, ma e parla anche di questo, il sindaco di Firenze Matteo Renzi, che sempre su Repubblica, e Goffredo Marchis, che in qualche modo, De Marchis, che in qualche modo lo avvicina, va a Firenze, ne raccoglie un po' gli umori. Di un Renzi in campo solo a metà, è questo un po' che gli imputano tutti coloro che dicono: ma come, Renzi cosa sta facendo? Non sta facendo campagna elettorale proprio per il Partito Democratico, forse è rimasto scottato dalle primarie. Ma Renzi dice: attenti, c'è troppa arroganza dei vincenti annunciati, mi arrabbio quando vedo candidati che già pensano alle persone, alle poltrone da sottosegretario, io sono sereno. Annuncia, tra l'altro, farà una trasmissione in radio su network nazionale una volta finito. A Radio 24 a me non risulta, insomma, Matteo Renzi sarà da qualche altra parte. Vabbè, poi voglio parlare anche di musica, parlerò anche di parole e di musica. Quindi annuncia questo come progetto: farò un programma su una radio, su un network nazionale, Matteo Renzi. E poi dice: mi hanno massacrato, per quell'espressione della rottamazione. Bene, oggi si vede che quei voti valgono doppio. Secondo me gli elettori in uscita dal PDL hanno cinque strade di fronte: rivotano Berlusconi, scelgono Monti, imboccano la via dell'astensionismo, mandano tutti a stendere e abbracciano Grillo, oppure votano noi e non è semplice convincerli. Ma non è un tradimento cercare quei voti, i traditori veri sono gli scilipoti. Insomma, Renzi che dice: si può pescare tra i voti del Popolo della Libertà, anche se mi hanno inchiodato con quella frase. E poi parla ancora di Berlusconi: è uno straordinario esemplare da campagna elettorale. Due mesi fa, dopo il nostro dibattito a 5 su Sky, andò in onda un porta a porta sul centrodestra di una tristezza infinita. Erano morti. Adesso Berlusconi mi sembra vivo, molto vivo. Dunque Matteo Renzi che lancia un po' l'allarme anche al centro-sinistra a dire: attenzione. E Berlusconi che fa? Beh, intanto va in TV, tanto, scrive così La Stampa, poi dice che La Stampa cattolica è con me, e Avvenire gli risponde per le rime. Tutto questo dopo il traffico. Allora, Silvio Berlusconi dice: la stampa cattolica e i cattolici sono con me. E oggi, se andate a spulciare Avvenire, trovate a pagina 8 un commento molto molto puntuto di risposta. A Berlusconi scappano battute, è la firma di un commento che si può attribuire in qualche modo alla direzione di Avvenire, quindi a Marco Tarquinio. Tra le ultime battute, due concatenate sull'apprezzamento e il consenso politico dei cattolici sul peso della stampa cattolica, per sostenere che manco a dirlo sono per lui. Ci vuole coraggio a proclamarlo, scrive Avvenire, ma il coraggio uno se lo può dare, il consenso altrui no. Insomma, una risposta abbastanza piccata. Tra l'altro Berlusconi, che ha le prese con la questione candidature, entro lunedì la formazione delle liste, sarà un weekend di fibrillazione nel centrodestra, allora pare che Cosentino ce la farà. Nicola Cosentino, molto chiacchierato, è sotto processo perché nel PDL la linea è questa: porta tanti voti. Mentre Marcello Dell'Utri fa un'intervista, un altro chiacchierato, fa un'intervista al Corriere della Sera. Per la verità non è un'intervista, è una chiacchierata che si conclude con Felice Cavallaro del Corriere, che si conclude così: ha capito che non rilascio interviste oppure no? In realtà però c'è tutta la chiacchierata spiattellata. Dice Dell'Utri: nenti vitti nenti sacciu, mi scuso per il siciliano, cioè niente vide nulla sa, ma che aria tira, nessuno mi ha candidato, non ho ricevuto proposte, ma quindi non si candida? Ma certo che mi candido, finché sono vivo continuerò a candidarmi. Infatti il titolo è questo: mi candiderò fino alla morte. Così Dell'Utri. Dica lei con chi correrà. Bah, un'idea ce l'avrei, potrei candidarmi col PD di Bersani, oppure potrei chiedere un spazio a una lista, quella di Ingroia, o forse è meglio evitare i suoi spazi ristretti. Insomma, un Dell'Utri anche che scherza. Si dice di una sua candidatura con Grande Sud. Grande minchiata, risponde Dell'Utri. E che fa allora una sua listarella autonoma? Lei la farebbe? Risponde un po' a monosillabi e alla fine dice: ma lo vuole capire che interviste non ne faccio? Però insomma c'è tutto sul giornale. Dell'Utri: mi candiderò fino alla morte, basta ricordarsi di chi sono amico io, cioè di Berlusconi, e dove sono sempre stato. Berlusconi che si candiderà un po' come tutti i massimi leader in tutti i collegi di tutta Italia. Su questo tuona Michele Ainis, costituzionalista, nell'editoriale di prima pagina del Corriere della Sera. Pluricandidati scelgano prima, è uno degli esempi del perché il Porcellum è sbagliato. Dice Ainis: ormai del Porcellum ci siamo abituati, siamo rassegnati, usa proprio questa parola come il nostro hashtag su Twitter. Diciamolo senza troppi giri di parole, scrive Ainis, è un insulto alla democrazia la possibilità di esporre lo stesso candidato in più circoscrizioni come una ballerina in tournée, perché il pluricandidato reca sempre sul petto una medaglia che gli assegna il diritto a un posto in zona Champions nella lista, e perché quindi è destinato a convertirsi in plurieletto. Siccome nessuno però può posare i propri glutei contemporaneamente su più di una poltrona, a urne chiuse dovrà scegliere o di qua o di là, e la sua scelta finirà per decretare l'elezione di chi gli viene appresso nella lista. Da qui un ossimoro consacrato dal Porcellum: è l'eletto che elegge, non già l'elettore. Anzi, un doppio ossimoro, perché in questo caso l'elezione avviene dopo l'elezione. E il popolo votante non può selezionare i candidati, dato che riceve un elenco telefonico, prendere o lasciare. Con il trucco delle pluricandidature non sa nemmeno per chi vota, sicché viene negata in ultimo non tanto la libertà quanto la stessa facoltà del voto. Una vergogna, o meglio, una plurivergogna. Tanto che Ainis conclude così: diteci insomma per chi andremo a votare, e ai partiti che ancora si affaccendono nella composizione delle liste, pulitele con un buon detersivo, perché se il pluricandidato fosse anche un pluriinquisito ci gettereste nella pluridisperazione. E questa è la possibilità, scrive Ainis, che è davvero una vergogna di questa legge elettorale, di candidare la stessa persona anche in tutta Italia, come faranno i maggiori leader. Dicevo, di programma, se volete, c'è una pagina interessante con cui concludo sulla spending review in Italia, pagina 11 del Sole 24 Ore, Marco Rogari. Tagli per la fase 3 partita da 12-15 miliardi, di questo si parla per quel che riguarda la spending review. C'è un esame dei programmi elettorali su questo tema e soprattutto un confronto impietoso. Davide Colombo lo mette a pagina 11, la spending review inglese farà risparmiare 81 miliardi. Sapete, nel 2007-2008, quando fu lanciata l'idea della spending review in Gran Bretagna, fu deciso come obiettivo un taglio di 20 miliardi di sterline all'anno e una riduzione di 84.000 dipendenti pubblici. Ebbene, 20 miliardi di sterline l'anno, primo anno preconsuntivo, cosa si è fatto? anche di più. Taglio di 23 miliardi di sterline. Proprio come in Italia, Vengono fatte le promesse, vengono mantenute, lì vengono anche superate. Proprio come in Italia. Il giornale radio.